Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il ministro dell'interno Piantedosi a Trieste per il giuramento degli allievi di polizia di Cesena ha detto: siete garanti delle libertà sancite dalla Costituzione, baricentro delle esigenze di una società complessa. Il capo della polizia, Pisani: massimo rispetto della dignità umana di chi avrete di fronte, chiunque esso sia, un cittadino per bene o chi ha commesso un reato. La Guardia di Finanza di Gorizia ha sequestrato 20 kg di oro puro al valico di Sant'Andrea e al casello dell'Isert, denunciati due autisti turchi che erano diretti fuori dall'Italia. La Procura di Pordenone ha sgominato una banda internazionale di truffatori seriali online nel settore di Forex, il mercato valutario internazionale. 54 i denunciati di varie nazionalità. La sfida dell'alta velocità degli youtuber dopo lo scioccante incidente di Roma in cui è morto un bimbo di 5 anni, si interrogano esperti e psichiatri. Telefonate di telemarketing moleste, il garante della privacy ha confiscato alcune banche dati, ma le associazioni dei consumatori dicono non basta. L'ultima frontiera della sicurezza informatica passa per il calcolo quantistico, l'Università di Trieste in prima fila con un progetto per lo sviluppo della rete protetta regionale. Rallenta l'inflazione in Friuli Venezia Giulia, indice al di sotto della media nazionale, ma i beni più cari continuano ad essere quelli di prima necessità, dagli alimentari alle utenze domestiche. Una imbarcazione ecosostenibile in fibra di lino, oggi il varo di Flying Lina, realizzata da un gruppo di studenti dell'Università di Trieste. Ancora buongiorno da Lara Zani e Francesca Vigori. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi questa mattina a Trieste per il giuramento di fedeltà alla Repubblica dei frequentatori del 220° corso allievi agenti della Polizia di Stato di Cesena. Carissimi allievi, siate fieri di voi, ha detto, continuate a migliorarvi perché significa migliorare la vita di tutti. Alla cerimonia in Piazza Unità erano presenti anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il capo della Polizia Vittorio Pisani. Una solenne cerimonia per i quasi 300 allievi della scuola di polizia di Cesena a causa dell'alluvione hanno giurato a Trieste in Piazza Unità stamattina davanti ai parenti emozionati e alle autorità, tra cui il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il collega per i rapporti col Parlamento, il pordenese Luca Ciriani e il capo della polizia Vittorio Pisani. Chi tradisce i valori della divisa tradisce lo Stato e i suoi cittadini, ha ammonito Piantedosi. Commosso ricordo della piazza per i poliziotti Rotte e Benevigo, uccisi a poche centinaia di metri da Piazza Unità del 2019 per loro parole da parte del capo della polizia nel corso del discorso davanti agli allievi. Durante la cerimonia alcuni leggeri malori per il caldo, mentre festa grande alla fine con il tradizionale lancio del cappello e addirittura proposta di matrimonio tra allievi, ben tre. Riesta Andrea Saulo e TGR, Friuli Venezia Giulia. La Guardia di Finanza di Gorizia ha sequestrato in due distinte operazioni 20 kg di oro puro al valico di Sant'Andrea e al casello autostradale dell'Isert. In entrambi i casi l'oro si trovava su mezzi con targa ungherese condotti da cittadini turchi. Al valico di Sant'Andrea lo scorso 23 maggio le fiamme gialle hanno fermato un furgone con targa ungherese sul quale in una borsa a frigo tenuta in cabina hanno rinvenuto 12 kg di oro puro. Alla guida del mezzo un turco che stava uscendo dal territorio nazionale a forte velocità. L'oro era suddiviso in 30 lamine e lingotti, titolato AU999, ma privo di punzonatura relativa alla provenienza e all'autore della fusione artigianale. Oltre all'oro, del valore al dettaglio di circa 1 milione di euro, sono stati sequestrati denaro contante e alcuni telefoni cellulari. Pochi giorni dopo all'Isert un'altra pattuglia ha fermato un altro camion con targa ungherese con a bordo 9 kg d'oro e una cospicua somma di denaro contante. Quest'ultima partita clandestina d'oro, se sarà confermata l'attestazione di purezza al 99,9%, potrebbe valere circa 750.000 euro. Entrambi gli autisti sono stati denunciati per l'ipotesi di reato di riciclaggio. Forse a causa dello scoppio di un pneumatico ha perso il controllo della vettura che si è capottata, è andata a fermarsi in posizione quasi verticale contro un albero sul raccordo autostradale a Trieste. Spettacolare ma fortunatamente senza gravi conseguenze, l'incidente è occorso questa mattina intorno alle 8 a una persona di 70 anni. L'uscita di strada è avvenuta lungo il raccordo in località Duina Orisina all'altezza dell'area di servizio. Il conducente è riuscito a uscire autonomamente autonomamente dal mezzo ed è stato preso in carico dai sanitari che ne hanno disposto il trasporto in volo all'ospedale di Cattinara in codice giallo per dinamica, ma era stabile e cosciente. I vigili del fuoco del distaccamento di Piscina hanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dello scenario. Sul posto anche polizia e personale ANAS. Truffe seriali online nel settore del foreign exchange, il cosiddetto Forex, mercato valutario internazionale non regolamentato del mercato azionario internazionale. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Pordenone, ha denunciato 54 soggetti di nazionalità ucraina, serba, ceca, ungherese, russa e israeliana, nessun italiano al momento risulta indagato, che attraverso 14 società in Scozia, Ucraina, Isole Marshall, Serbia, Estonia, Inghilterra, San Vincent e Grenadine, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Israele e Ungheria perpetravano truffe seriali a danno di cittadini italiani. Allettati dai primi guadagni, i truffati finivano per impiegare nell'investimento telefonico tutti i risparmi di una vita. In realtà il denaro veniva utilizzato mediante servizi di pagamento non autorizzati anche per il saldo di fatture emesse da imprese comunitarie nei confronti di aziende ucraine e russe dell'Europa orientale. L'incidente a Roma in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni, nelle fasi precedenti allo schianto, i quattro giovani a bordo del SUV stavano girando un video da postare poi sui social. Alcuni fanno parte di un gruppo molto seguito, The Borderline, per una sfida online, incitando il ventenne alla guida. Abbiamo raccolto il commento del professor Maggi, del docu-reality di Rai 2, Il Collegio, e dello psichiatra Paolo Crepet. Cercare la notorietà a tutti i costi, impegnarsi in sfide assurde, ridicole o peggio pericolose. Dietro c'è la voglia di diventare famosi con il minimo sforzo possibile e magari fare molti soldi. Il commento del professor Andrea Maggi, noto per il docu-reality di Rai 2, Il Collegio. Se chiediamo alla maggior parte dei ragazzi che cosa vorrebbero fare da grande, loro risponderebbero che vorrebbero fare gli youtuber, perché tra i giovani corrono questi modelli dello spregiudicato e del ricco che arriva subito. È diventato il modello, ma perché è diventato il modello dei giovani? Perché anche noi adulti, da ormai una trentina d'anni, abbiamo questi modelli di spregiudicati self-made men che si sono costruiti da soli, anche salendo sulle spalle degli altri. Pertanto io non credo che la soluzione sia chiudere i social. Che bisogna ricominciare a dare valore alla cultura e all'istruzione, cosa che viene messa completamente da parte. Proprio per affrontare questi temi, il 17 luglio lo psichiatra Paolo Crepè sarà al Castello di Udine ancora una volta per mettere i genitori di fronte alle loro responsabilità. Nel frattempo che noi registriamo questa tragedia, ce n'è stata un'altra in Piemonte, dove un ragazzo ha ucciso un altro ragazzo sulle strisce, ovviamente. Pare che chi guidava era sotto gli effetti di droga. Allora, se c'è qualcuno che si meraviglia di tutto questo, non so in quale pianeta stia vivendo, perché le nostre città sono mercati aperti di droghe, alcol, a tutte le età, anche ai 14enni, anche ai 13enni, anche a Trieste, anche a Udine, anche ovunque, quindi non facciamo quelli che non si sono accorti del mondo in cui viviamo. Un genitore che sa che suo figlio è un youtuber, lo controlli ogni minuto della sua vita perché fa quel mestiere lì, quindi sei online con tuo figlio e non gli dici niente, sei muto, va bene così. Poi certo che si può arrivare ad una tragedia, ma secondo me c'è anche una tragedia prima della tragedia, una tragedia di una generazione che non sa fare niente. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Di questi giorni la notizia che il garante per la privacy per la prima volta ha confiscato delle banche dati di call center per arginare le chiamate di telemarketing selvagge e moleste. Le associazioni dei consumatori plaudono all'iniziativa, ma, dicono, non basta. Una buona notizia la confisca delle banche dati dei call center compiuta dal garante per la privacy, ma non è affatto risolutiva per un mercato dei dati personali ormai fuori controllo, lo afferma la vicepresidente di Consumatori Attivi di Udine, Barbara Venuti, che rileva come paradossalmente la situazione sia peggiorata dall'attivazione del registro pubblico delle opposizioni anche per le numerazioni dei telefonini. A segnalarcelo sono gli stessi associati iscritti al registro che stanno ricevendo un numero maggiore di chiamate moleste anche da paesi esteri, spiega Venuti. Rileva lo stesso per i propri associati anche l'avvocata Paola Tanzi, delegata di Adusbef per il Friuli Venezia Giulia. Il registro delle opposizioni non sta bloccando le chiamate, dice, ed è facilmente superabile nel caso, ad esempio, di aziende con società plurime che ne iscrivono solo una parte. Necessario per entrambe le associazioni dei consumatori spezzare il meccanismo con una stretta normativa sulla compravendita dei dati personali, fondamentale per venuti di consumatori attivi che il legislatore chiarisca quali siano utilizzabili a fini commerciali. Diversamente, aggiunge, rischiamo che le attività di sottobosco restino tali. Per la referente regionale di Adusbef basterebbe dare effettiva attuazione alla normativa che già esiste. Se i cittadini iscritti al registro continuano a ricevere chiamate, è chiaro che la stessa non funziona, osserva Tanzi, auspicando l'intervento di un organismo di controllo che verifichi l'operato delle aziende. Ma la normativa italiana, osserva con sconforto Venuti, potrebbe essere aggirata dai call center che chiamano da paesi esteri. Insomma, una lotta ad armi impari con il telemarketing selvaggio sempre più aggressivo, che intanto continua ad espandersi e a evolversi, ora anche con la messaggistica, SMS con link truffaldini che con la telefonia mobile di ultima generazione si rischia di aprire più facilmente, permettendo di accedere ai propri dati personali. Per carpirli, avvertono le associazioni dei consumatori, è già sufficiente il codice identificativo del contatore della luce o una qualsiasi tessera fedeltà. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. L'inviolabilità delle comunicazioni digitali può essere garantita dal calcolo quantistico. I paesi europei si stanno dotando delle reti di comunicazione quantistica e l'Università di Trieste, che sta già sviluppando la rete regionale, rappresenta uno degli snodi principali della rete italiana. Ne abbiamo parlato a Buongiorno Regione con il referente del progetto, Angelo Bassi. Una svolta per l'inviolabilità delle comunicazioni digitali arriva dal calcolo quantistico. In Italia si sta già costruendo la rete di comunicazione quantistica che ha nell'Università di Trieste uno dei suoi partner principali. Uno dei vantaggi della comunicazione quantistica, oltre alla sua inviolabilità, è che si appoggia alle infrastrutture esistenti, dalla fibra ottica ai segnali satellitari. Angelo Bassi, professore di fisica e referente dell'Università di Trieste per il progetto. I dati, quando vengono trasmessi, in molti casi devono essere protetti. I dati anche hanno bisogno di un supporto fisico, tipicamente la luce oppure un segnale elettrico. Quindi entra la fisica in gioco. La fisica quantistica cambia il modo di trasmettere i dati e in particolar modo, grazie alle proprietà della meccanica quantistica, i dati trasmessi non possono essere intercettati. Nel senso che se vengono intercettati uno se ne accorge. Chi osserva lascia una traccia. E se io vedo la traccia, prendo provvedimenti. L'antivirus è un po' il gioco al gatto e al topo. C'è un problema, l'antivirus lo risolve, poi se ne scopre un altro e così via. Invece, nel caso della meccanica quantistica, la sicurezza è intrinseca. Non c'è bisogno di un antivirus perché è il protocollo stesso, il sistema stesso che ha all'interno il suo antivirus. Se succede qualcosa, io lo vedo. L'Università di Trieste, attraverso il finanziamento regionale, ha già avviato la realizzazione di una rete regionale di comunicazione quantistica in collaborazione con l'area Science Park, la SIS e l'Università di Udine. Un'esperienza e capacità che hanno reso l'Ateneo un candidato affidabile per sviluppare uno degli snodi principali della rete di comunicazione quantistica nazionale. L'Europa vuole costruire una rete europea e ha bandito dei progetti nazionali. L'Italia si è attrezzata, c'è un progetto che vuole costruire una rete che copre tutto il territorio. Noi siamo uno dei nodi principali. Stiamo facendo questa tecnologia assieme ad altre città, ma anche per la posizione geografica, perché da noi poi si andrà nell'est e anche nel nord Europa. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le 12:43 minuti e 42 secondi, diamo uno sguardo al tempo che al momento vede cielo sereno su tutta la regione, a parte qualche annuvolamento sui monti. Queste le temperature registrate poco fa a Trieste, 22 gradi, mare calmo con temperatura di 21 gradi, a Pordenone 24 gradi, a Udine Gorizia 25, a Piancavallo 15 gradi, a Sappada 17, a Forni di Sopra 19, a Tarvisio 22, a Tolmezzo 23 gradi, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 13 gradi, a Grado 23, a Lignano 25, temperatura del mare 23 gradi. Fine settimana all'insegna del bel tempo, con possibile instabilità pomeridiana soprattutto in montagna. A illustrare le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, Francesco Sioni. Ben ritrovati. La depressione presente sull'Europa orientale si sposterà appunto lentamente verso est, lasciando spazio all'anticiclone africano che, portandosi sulla nostra regione, determinerà maggiore stabilità e sostanziale bel tempo nel weekend. Nel dettaglio, quindi, sabato avremo al mattino cielo in prevalenza sereno, dal pomeriggio sulla zona montana e sulla pianura potremo avere cielo poco nuvoloso o variabile. Sulla zona montana nel pomeriggio sera saranno tuttavia ancora possibili dei rovesci o temporali sparsi, che poi però in seguito interesseranno solo alcune zone dell'alta pianura. Le temperature massime sabato saranno in pianura attorno ai 27-30 gradi, sulla costa tra i 24 e i 26 gradi circa. Domenica una giornata molto simile a quella di sabato, quindi ancora cielo sereno o poco nuvoloso, appunto in montagna nel pomeriggio, maggiore variabilità con qualche rovescio o temporale sparso che ancora dovrebbe essere localizzato principalmente appunto alla zona prealpina, ma potrebbe interessare anche qualche zona dell'alta pianura. Sia sabato sia domenica avremo venti a regime di brezza. Rallenta l'inflazione in Friuli Venezia Giulia, l'indice si attesta al di sotto della media nazionale, ma i beni più cari continuano a essere quelli di prima necessità, dagli alimentari alle utenze domestiche. Sentiamo. L'inflazione rimane alta, anche se meno che nei mesi scorsi e soprattutto meno qui in Friuli Venezia Giulia che nel resto d'Italia. Più 7,5% il dato tendenziale registrato a Trieste, a Udine è un po' più basso, il 7,3%. In ogni caso siamo qualche decimale sotto l'inflazione media nazionale di questo mese, attestata a 7,6 punti percentuali. Diverso il discorso per quanto riguarda la crescita dei prezzi rispetto al mese precedente. Qui Trieste è maglia nera con un più 0,7% contro lo 0,3% in più di Udine, in linea col resto del paese. Insomma, quasi tutte le spese continuano a risultare più care oggi rispetto al passato, anche se la corsa dei prezzi sta molto lentamente rallentando. A rincarare in maniera pesante sono soprattutto i beni di primissima necessità. Partiamo da Trieste, l'indice anno su anno certifica un aumento di 13,5 punti percentuali per le utenze domestiche e di poco meno del 13 per i generi alimentari. A seguire troviamo ristorazione, attività ricreative e abbigliamento. Prezzi generalmente in salita anche rispetto al mese scorso, anche se proprio sul dato congiunturale si iniziano a registrare i primi decrementi, specie per quanto riguarda comunicazioni, trasporti, attività ricreative e articoli per la casa. Discorso simile a Udine, dove la stangata arriva sempre da utenze domestiche e alimentari, le voci del paniere che rincarano di più, ma dove i primi segni di un rallentamento dei prezzi a livello congiunturale appaiono anche più robusti che a Trieste, decremento legato soprattutto alla diminuzione dei costi dell'energia, ma che continua a pesare proprio su famiglie e fasce deboli della popolazione. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Raccolta differenziata dei rifiuti, a Udine si imposta un nuovo progetto per aumentare efficienza ed efficacia della raccolta, un piano che prevede anche novità tecnologiche. Era stato annunciato durante la campagna elettorale per il nuovo sindaco della città di Udine un aggiustamento sulla raccolta differenziata. Sarà un lavoro lungo, condiviso per gradi, obiettivo primario e una maggiore spinta verso la raccolta differenziata, un aumento dell'umido importante come materia prima per il biodigestore di NET. Sono tanti i sopralluoghi, gli incontri e le riunioni che la NEA assessora all'ambiente ed energia Eleonora Meloni sta effettuando in questi giorni per arrivare a un piano nuovo, un percorso a step per rendere la città più pulita, quello avviato intanto del censimento e mappatura dei cestini. Eleonora Meloni, assessora all'ambiente ed energia. Cercheremo di migliorare un sistema di raccolta che così com'è non funziona. Lavoreremo a step. Il primo di questi è la mappatura del sistema di cestini presenti in tutta la città, per poi andare avanti di pari passo con quella che è invece il sistema generale di conferimento dei rifiuti. Quindi quello che riguarda il sistema porta a porta nelle case e nei grandi condomini. Ma non solo, anche la sperimentazione di un cestino autocompattatore di ultima generazione con avviso in centrale del riempimento che nei prossimi mesi sarà posizionato in città. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. È fatta di fibra di lino e resine di origine vegetale, Flying Lina, la nuova imbarcazione ecosostenibile progettata e realizzata dall'Audace Sailing Team, un gruppo di studenti appassionati di vela dell'Università di Trieste, che sarà varata oggi pomeriggio alle 18.30 allo Yacht Club Adriaco di Trieste. L'iniziativa è nata nell'ambito di un progetto di ricerca guidato da Rodolfo Taccani, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Ateneo. Varata la quarta imbarcazione realizzata dall'Audace Sailing Team dell'Università di Trieste, quarta imbarcazione ma prima su foil, ovvero sia delle imbarcazioni che, come succede per l'imbarcazione di Coppa America, volano sull'acqua, quindi sono delle appendici che permettono allo scafo di rimanere fuori dall'acqua. L'altra caratteristica importante di queste imbarcazioni è che sono realizzate tutte con materiali ecosostenibili, quindi l'Audace Sailing Team è un gruppo di studenti dell'Università di Trieste che condivide la passione per la vela ma anche quella per la sostenibilità, quindi tutte le quattro imbarcazioni sono state realizzate proprio con dei materiali ecosostenibili, utilizzando anche delle tecniche innovative di progettazione che consentono quindi di realizzare delle imbarcazioni dal punto di vista dell'impatto ambientale appunto sostenibili, ma anche altrettanto robuste e performanti come le altre imbarcazioni. Viene anche siglato questo accordo con lo Yacht Club. Ecco, questo è un altro aspetto importante che vede appunto la disponibilità dello Yacht Club Adriatico, quindi uno dei più importanti yacht club nell'Adriatico, che dà la disponibilità di spazi e risorse proprio per i nostri studenti che possono quindi allenarsi in centro città, anche potendo beneficiarvi di una struttura importante e ricca come quella della Yacht Club. L'associazione Chamber Music propone una 3 giorni dedicata al Trio di Trieste, l'iconica formazione composta da Dario De Rosa, Renato Zanettovic e Libero Lana, poi sostituito da Amedeo Baldovino, attraverso il nuovo Trio Festival di scena in Sala Luttazzi a Trieste da oggi a domenica con inizio alle 18. 3 ensemble di riferimento della scena cameristica del nostro tempo, si comincia oggi con il Trio Chagall, eseguiranno l'integrale delle pagine di Schubert scritte per trio con pianoforte. Bloom nell'anno di Zeno, si potrebbe sintetizzare così la 14ª edizione del Festival Bloomsday 2023, una festa per Joyce, in programma a Trieste da oggi al 18 giugno. 3 giorni di cultura nel suo senso più ampio. Nel weekend torna a Trieste Bloomsday, il festival letterario dedicato a James Joyce. Focus di questa edizione il 15° e più lungo capitolo dell'Ulisse, Circe, il bordello, episodio visionario, crudo e onirico. Le giornate, che prendono il nome dal protagonista dell'opera, Leopold Bloom, avranno approfondimenti, conferenze, mostre d'arte, piste teatrali e concerti. Si tratta della 14ª edizione del festival, che ribadirà ancora una volta il legame dello scrittore irlandese con la città che l'aveva adottato. Tra le novità, la partnership istituzionale con l'ente di turismo irlandese. Come detto, il Bloomsday sarà incentrato su una sola parte dell'Ulisse, il riassunto della giornata che introduce il ritorno a casa del protagonista e del suo protetto Daedalus. Ospiti d'onore saranno Alessandro Bergonzoni, Enrico Terrinoni e Fabio Pedone, che organizzeranno una conferenza spettacolo dedicata alla magia del labirincubo. Tra le altre iniziative, non si sa mai di chi si masticano i pensieri, azione poetica e musicale di Enrico Frattaroli, basata sui flussi di coscienza tipici di Joyce. Ogni giornata sarà aperta da una colazione irlandese allo Yacht Club Adriaco e la messa in scena di una delle interpretazioni di Circe. Tra i luoghi coinvolti anche la Torre del Lloyd, dove si ricostruirà il bordello dublinese, e Androna Giovani, con la partecipazione del servizio di prevenzione e contrasto alle dipendenze di Asugi. Spazio anche per l'arte, per i concerti folk e per i bambini, oltre che al turismo con i tour guidati a piedi nei luoghi di Trieste, entrati nel cuore di Joyce. Si inaugura inoltre la collaborazione con Pola, altra città dove lo scrittore aveva vissuto, che ospiterà 2 eventi andati in scena nell'edizione dell'anno scorso del Bloomsday. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Su iniziativa della consulta di bioetica, oggi e domani all'Università di Trieste si terrà un incontro di divulgazione e formazione che si pone come obiettivo la riflessione su questioni critiche in pediatria. Bioetica e pediatria è il titolo. Attraverso il confronto di esperti approfondirà la situazione nel nostro paese per provare a indicare i percorsi più appropriati da seguire per garantire sempre la dignità dei bambini. Oggi alle 13.30, domani dalle 9.00. In Aula Magna dell'Università di Trieste. Autovie Venete ha programmato da stasera un cantiere per il rifacimento della pavimentazione nel tratto autostradale della A4 tra San Donà di Piave e Cessalto. In quanto l'asfalto in quel tratto, anche a seguito di alcuni recenti incidenti che hanno coinvolto i mezzi pesanti, si è particolarmente usurato. L'intervento non comporterà alcuna chiusura autostradale, ma Autovie Venete invita gli utenti a prestare particolare attenzione al cantiere, che potrebbe comportare rallentamenti e code. A partire dalle 23 di oggi fino alle 5 di lunedì 19 sarà attivo uno scambio di carreggiata. In particolare per chi entrerà in A4 dallo svincolo di San Donà di Piave in direzione Trieste verrà installato uno stop con obbligo di fermarsi. Il nostro giornale radio si chiude qui, dalla Razzani e Francesca Vigori che lo hanno redatto e condotto. Roberto Cavallari e Vassia Krismancic che hanno curato la parte tecnica. Samantha Goni in redazione, grazie per la cortese attenzione. Buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.